Cacau. Rádio Alma. Les concerts de l'espace DI avec Emmanuel. Et Coco Royal. Samedi 18 avril à 21h45. Maison des cultures de Saint-Gilles. Entrée gratuite. Info www.radioalma.be. Buonasera amici, la Tela Sonora 101.9. Buonasera. Buonasera anche da Giulietta da Paola, da Paola Grado e Gabriella T, come al solito. Oggi venerdì di Pasqua, abbiamo tre ospiti in radio, musica nuova, che Paola, perché Paola ha da farvi un annuncio, anzi quasi quasi lascerei direttamente i microfoni a Paola, vai Paola. Sì, grazie. Allora vorrei ricordare, per chi non lo sapeva, per chi già lo sapesse o dire a chi non lo sapesse, che dal 16 aprile al 3 maggio ci sarà una rassegna su Napoli al Cinema Nova a Bruxelles, in Rue d'Arenberg. E saranno proiettati dei documentari, dei film, e ci sarà un concerto dei palcoscenico, per amici cari che io conosco e che saluto, il 3 maggio a conclusione di questa rassegna. Chi sono i tuoi amici? Venite numerosi, sì. Sono il palcoscenico. Oh, e chi sono? Raccontaci qualcosa di loro. Sono degli gruppo. Amici, beh gruppo. No, dovrei, ci vorrebbe una puntata intera per raccontare. Ah, allora li invitiamo la prossima io direi, volta. Io invito al Cinema Nova il 3 maggio. Va bene, ok, grazie Paola. Grazie. Cari amici della Tela Sonora, quindi come vedete non solo la tela si occupa di poesia, di parola, e che nunc, filo rosso, ma anche di concerti, perché noi cerchiamo sempre di proporvi della musica di giovani artisti, giovani band che magari in Italia hanno piano difficoltà comunque a farsi conoscere, e li invitiamo quando possibile qua a Bruxelles. Ma ritornando al nostro tema, la poesia, dirvi chi questa sera verrà intervistato alla Tela Sonora. Abbiamo tre nomi: Marco Scalabrino, Sebastiano Aderno e Stefano Massari. Allora, di questi tre, Stefano sarà l'ultimo. Stefano fa un lavoro molto bello, perché pubblica con una scadenza, credo trimestrale, una rivista, Land, che è la rivista dell'Associazione Secolo Zero. In questa rivista ci saranno parecchi ospiti, parecchi poeti che vengono intervistati da Stefano, quindi magari lasceremo poi a lui la parola, la scelta. Tra queste vorrei semplicemente ricordare, adesso volevo leggervi addirittura Paola Febraro. Vi ricordate che Anna Maria Farabi, quando è stata intervistata il 5 febbraio scorso, dedicò l'intera puntata proprio a questo personaggio, Paola, in ricordo della sua scomparsa. E quindi, come vedete, il filo rosso, la tela sonora, hic nunc, tutto è legato, tutto è collegato. Sono modi diversi che noi abbiamo di esprimere, di fare poesia, e chiaramente con hic nunc invitiamo poeti francesi, per chi non lo sapesse, fosse all'ascolto della tela sonora per la prima volta, mentre col filo rosso sono le pagine di Anna Maria Farabi, scritte da lei proprio con corrispondenza a volte personale con gli scrittori, e poi abbiamo una carrellata e ospiti che così ci bombardano, che ringraziamo, perché dovete sapere che la Tela Sonora riceve tantissimo materiale, tantissimi libri. E non solo, ci terrei ad informare, e tutti i nostri amici ascoltatori, che Radio Alma e la sottoscritta, perché conosce Vincenzo D'Alessio, ha ricevuto una specie di premio, quindi siamo associati, se vogliamo, soci, associati d'onore dell'associazione di Vincenzo D'Alessio, per il grande lavoro culturale che stiamo facendo qui a Radio Alma, alla Tela Sonora, in questo caso, ma anche a Bruxellando e in tutte le emissioni, tutte le trasmissioni della radio. Quindi un ringraziamento particolare, con questo hanno voluto ringraziarci per l'impegno quindi che sempre abbiamo durante questi mesi, durante questi anni ormai, saputo manifestare nei confronti della cultura italiana. A detta ad esempio di Stefano e di Sebastiano, che questa sera saranno con noi, addirittura questo spazio è visto dall'Italia come veramente un momento magico e miracoloso, proprio perché in Italia la poesia, la letteratura e tutto ciò che ha a che vedere con la scrittura, in questo periodo più che mai è considerato quasi un di più, quindi underground, quasi emarginato. E benissimo, ringraziamo quindi Vincenzo. Non so se la vuoi mettere la musica, Paola, allora, dei tuoi amici, sì. Così testimoniamo la loro bravura e poi incominciamo con le interviste. A dopo. Suona mia, e mi credo che ho frutto e l'alleria. Si te mi sa paura roscura, non ho da retta, non ho panza mai più. E mori ma capienza stasera, senta voce lo cuore che spera. Ma pare d'argento, sai in cielo e ciù gianca di vento. Sei pensiero che mi lasciano spaesato, sui vestiti venata sposa. Sei pensiero che mi lasciano spaesato, sui vestiti venata sposa. Ma para l'amore, se tu me lassi mo ma conta allora. Ai da fenesti mo vega guaiona, se sbatto coro va truanna l'amore. Si guarda in cielo sta stella argenta, ma parli te e ma fa contenta. Sui vestiti venata sposa, sei pensiero che mi lasciano spaesato. Sui vestiti venata sposa, sei pensiero che mi lasciano spaesato. Sui vestiti venata sposa. Bentornati, quindi vi presenteremo ora il primo dei tre autori di questa sera, Marco Scalabrino, e in particolare una raccolta che si chiama Tempu, Palori Aschi e Meravigli, e vorrei leggervi una piccola introduzione di Flora Restivo Kugurullu. Rispetto alla prima silloge, Palori, la nota principale di Tempu è l'accentuarsi della vena lirica nei confronti di quella sociale, pur sempre presente, la musicalità più intensa e consapevole, lo sfumare di talune irruenze di una colorita più tenue, una più sottile interiorità che porta Scalabrino a collocarsi strettamente in un divenire che miscela passato e presente, incanti e sofferenze, errore e coscienza, con tonalità che vanno dalla potenza del largo recitativo al suggestivo pianissimo, senza mai venir meno alla vibrante tensione poetica e psicologica espressa attraverso eleganti metafore, allitterazioni e tutte le altre forme sintattiche della lingua italiana. Ma non solo lingua italiana, cari ascoltatori, perché questa raccolta è in varie lingue, in spagnolo, siciliano soprattutto, in inglese, la traduzione ogni tanto è fatta in italiano pulito, per così dire. E quindi diamo il benvenuto all'autore Marco Scalabrino. Buonasera. Buonasera, buonasera, come stai? Mi piace di sentire. Buonasera Marco. Buonasera. Senti, aspetta che aggiustiamo un attimo i microfoni. Sì. Allora, tu intanto da dove ci chiami? Allora, brevi note su di me, mi chiamo Marco Scalabrino, telefono da Trapani. Sì, però si sente bene. Sono sposato con Maria Pia, abbiamo una bambina di 8 anni, viviamo e lavoriamo a Trapani. Ci possiamo chiedere solo di parlare un po' più forte, se possibile? Sì, proverò. La voce che è quella, proverò magari ad alzare la voce, sì. D'accordo. Senti, allora, incominciamo l'intervista. Io ho letto un pochino il tuo libricino che hai spedito, Tempu, e ho letto anche quelle interviste che ti sono state fatte, che riguardano la poesia e tutto il lavoro di traduzione della poesia. Tu scrivi sostanzialmente, particolarmente in siciliano, però ti hai letto di dove? No, diciamo che io di mio scrivo in siciliano, mi occupo del siciliano, degli autori siciliani, soprattutto viventi, sia che scrivono in siciliano sia che scrivono in italiano, ma quando faccio delle traduzioni mi rendo conto che magari l'italiano è più richiesto, quindi a meno che non c'è una specifica richiesta, come succede con un autore con il quale sono in contatto, traduco anche in italiano oltre che in siciliano. Diciamo, la mia è una scelta perché mi ritengo di essere un siciliano, di essere testimone del mio tempo, di dare al mio dialetto una valenza nuova, anche perché mi riallaccio un pochino al movimento rinnovatore che c'è stato nella poesia siciliana dopo la seconda guerra mondiale, e quindi rinverdire un pochino il siciliano, alleggerirlo dai vezzeggiativi, dai diminutivi, dalla iconografia corrente, da un sentire, diciamo, tradizionale, ecco. Senti, ci vuoi, diciamo che a noi farebbe piacere, e questo è un po' il principio della tela sonora, che i poeti ci leggessero con la loro voce i testi delle loro poesie. Poi magari, dal momento che ho visto che ci sono delle belle traduzioni nel tuo libro, se ti può far piacere possiamo anche tradurre, leggere la traduzione in inglese o in tedesco, perché Giulietta lo conosce molto bene. Sì. E quindi il testo lo rivediamo. Benissimo, allora magari se ci dai anche la pagina della lettura della tua poesia. Lo proponete voi il testo o lo propongo? No, proponilo tu. Io vorrei proporre Aschi e Maravigli di Sicilia. Benissimo. Perché è a pagina 32 e seguente del volume Tempu. Ok, benissimo. Okay. L'abbiamo trovata. Sì, ok. Quando dite io posso andare? Vai. Allora, vado. Aschi e Maravigli di Sicilia. Per nascita, diritto, Cardacia. Delle rari che alla storia stammati tu m'appartene. Sono tre pilastri, gucciate con puzzolana d'amore, e te non bere un muore. sonno, rosso sonno, lume calannario, un angelo, parata d'arte all'amo delle stigge, magicò, fu una volta e per sempre alle sue ali. Successe, e se di un lungo spasso, preo, ogni nuovo mercoledì per suo miracolo, e aspetto, su quanto posso fare. Ammettono le stagioni col sole di cuore sempre nuovo, e allungano botta a botta la processione di urici, manette, tabuti, io zero, io la parteo, io senza travaglio, io bucato, io su casimbola, io la di assattaglio, io mafioso, io cascettone, io non respiraglio, io non lento mai di bestemmiare. Auge, a spasso, sto giorno magari, sta freve a matto delle mie carni e manco un buon di luce per braccare. Ma sonnere, scattoso, a demora, e a tocca a mia, non posso fuere. Maci, tapita d'auro, zorba, marvasia, luciore spaiolato alla tosciara, e luciauro, delle nasche, lo sanno, lo senzio, non si lava, giù. Ok. Bene, adesso continuo con la traduzione tedesca. Sì, perfetto, ok, così ti seguo anch'io. Durch Geburt, Recht, Herzklopfen. Und von der Ursprung zur Geschichte. Diese Verbindung gehört mir. Nur drei Säulen verbunden durch den Mörtel der Liebe tragen die Welt. Ein Tag, Feiertag nur in meinem Kalender. Ein Engel, als Vorposten vom Himmel geschickt, umschlang mich ein für alle Male mit seinen Flügeln. Es ist geschehen, und wenn kein Scherz war, bete ich jeden Mittwoch, dass dieses Wunder erneut geschehe und warte. Was könnte ich sonst tun? Eine Jahreszeit folgt der anderen, stets auf neuen Ledersohlen, und sie werden länger, Schlag auf Schlag, immer länger, wird die Reihe von Richtern Handschellen sägen. Ich bin ein Nichts, ich bin ein Parasit. Ich bin ein Arbeitsloser, ich bin ein Drogenabhängiger, ich bin ein Schwuler, ich bin ein AIDS-Risiko, ich bin ein Mafioso, ich bin ein Denunziant, ich bin ein Verzweifelter. Ich höre nie auf zu fluchen. Auch heute wird jemand seine Arbeit verlieren, dieses Fieber lähmt meine Glieder und keine einzige Brücke in Sicht. Um es zu überwinden. Meister Montag, boshaft, hört nicht auf, und jetzt bin ich dran, ich habe keinen Ausweg. Mutter, es riecht nach Lorbeer, Schlehen, Malvasie, eine Blüte aus deinem Lavagestein entsprungen, und der Duft in der Nase, im Blut, in den Gefühlen, wird nie entweichen. Un applauso da parte mia. Anche da parte nostra. Molto bene, grazie. Senti Marco, quindi ci vuoi parlare un attimino del lavoro della traduzione? Perché tu sei convinto che si possa tradurre. Si possa tradurre e si faccia poesia. Benissimo. Uno dei nostri più grandi poeti italiani ha detto che la traduzione è anche un modo di fare poesia. L'importante è, secondo me, riuscire ad essere coerenti con l'autore che si traduce e con la lingua nella quale, la lingua diciamo di arrivo, non tradire né la parola né il significato né il concetto dell'autore. Questo secondo me un poeta riesce a farlo meglio, perché si riesce ad identificare di più nella tecnica e anche nei simboli, nel significato dell'autore che legge e che fa proprio, anche perché io traduco unicamente gli autori che mi piacciono, certo. Quelli che sento, quelli che sento vicini a me, per cui riesco anche a compenetrarmi nel loro spirito oltre che nella loro parola. Lo faccio volentieri, è una cosa che mi arricchisce perché mi consente di entrare in mondi che mai sarebbero miei e che invece in questo modo io scopro assieme ad altri. È una cosa che ritengo bella, tra l'altro una cosa utile, perché moltissimi autori che non potrebbero mai arrivare nella loro lingua non non sarebbe accessibile a tutti. In questo modo si fa che insomma, anche in Italia possano regolare questo loro testo, in italiano soprattutto, ma anche in dialetto laddove sono richiesti in siciliano. Quindi la traduzione è una specie di viaggio per l'autore, per lo scrittore che traduce e anche per il pubblico che riesce a leggere. Certamente, è un'avventura, per il traduttore è un'avventura perché riesce ad appropriarsi di mondi che non sono i propri, ma li fa proprio nel momento in cui li rende nella propria lingua di arrivo. E questa è una bella cosa. Basta farlo con molto amore, con tempo, con dedizione e con un certo rigore anche filologico dell'autore. Molto spesso mi capita di tradurre soprattutto autori viventi con i quali sono in contatto per posta elettronica, per posta oppure deviso, e laddove c'è un'attenzione particolare, un momento di riflessione, un momento anche di maggiore, che necessita maggiore attenzione, ecco, magari si entra in contatto, ci si chiariscono meglio le idee per arrivare ad una relazione che sia fedele e dello spirito e della lettera dell'autore tradotto. Senti Marco, ti volevo interrompere perché ho visto quasi alla fine della bellissima, sì, del discorso preliminare, sì, che hai, quando sostieni che l'uomo è energia, è universo, sì, lo dici perché hai inserito in questo libro, o forse non lo so, in una raccolta precedente, una poesia di Siddhartha. Ci vuoi leggere questa poesia? Perché dunque, Siddhartha, adesso dunque mi pare che nel volume Tempo. Sì, a pagina 61. Pagina? 61. 61, sì. Una breve... chiaramente questo testo mi nasce dall'avere letto ed amato il Siddhartha di Hesse. Anch'esso chiaramente in italiano, non avrei potuto leggere in tedesco, anche se l'ho studiato, sarebbe stata una lettura molto più difficile. Ma ci pensa, va bene. Mi è piaciuto molto, penso che tutti diciamo, della nostra generazione l'abbiano letto più volte e l'hanno magari col tempo rivisto. Benissimo. Io l'ho letto e mi ha ispirato questo testo brevissimo, che penso sia una sintesi del volume stesso. L'ho scritto di getto, mi è piaciuto moltissimo e lo propongo quando mi viene richiesto, come in questo caso. Benissimo. Siddhartha, infatti il sottotitolo è Da Hermann Hesse. Respiro lo fiume che scende, eterno e ascuto, sireno dei suoi mille voci. Sgriscio la perfezione. Quindi c'è questo toccare, questo sfiorare la perfezione, non ci raggiunge mai la perfezione, ma l'uomo diciamo, nel suo essere spirituale la può solamente sfiorare, ma già è tantissimo. Ok, sì. Leggo la traduzione in tedesco? Sì. Ich nehme den Fluss, der ewig fließt, in mir auf, lausche unbeschwert seinen tausend Stimmen und berühre zart die Vollkommenheit. Bene Marco, senti, purtroppo ti dobbiamo lasciare perché dobbiamo dare anche spazio agli altri due ospiti. Grazie, io ringrazio voi, Daniela T, tutti voi in redazione, la radio vostra, un grossissimo abbraccio a tutti quanti i radioascoltatori. Va bene. Grazie ancora. E poi mi raccomando, non dimenticarti di mandarci alcuni testi che verranno pubblicati sul blog, quindi la nostra collaborazione non finisce qua. D'accordo, okay. A presto allora. Un bacio, grazie. Grazie. Grazie. Grazie, un bacio anche a voi. Grazie. Buonasera. Benissimo, quindi era anche logico, dalla Sicilia la comunicazione era leggermente disturbata, però avete così potuto constatare voi stessi, cari amici ascoltatori, la bellezza, la semplicità di questo poeta che è riuscito, se vogliamo, ad affrontare questo compito abbastanza arduo, ma anche con semplicità e con passione, ed è riuscito a presentare durante quindi la lettura e nelle traduzioni una poesia così molto spurgata, se si può dire, da ogni manierismo, e quindi ricca della sua originaria forza dello scrittore quando l'ha scritta in un'altra lingua. Quindi io direi di continuare con la musica, perché questa sera abbiamo anche altri amici che hanno organizzato già concerti e che spesso ci inviano i loro CD, perché appunto la tela sonora ci tiene tantissimo a mandare così on air musica italiana, ma musica anche nuova, di nuovi gruppi. Quindi lascio a Paola l'arduo compito di trovare il testo che meglio si addica alla serata, quindi iniziata con la Sicilia, continuerà poi con Bologna, o forse con Sicilia di nuovo e poi con Bologna all'ultimo. E quindi Paola, che cosa ci proponi? Ascoltiamo i Damien con 80s Tune. Benissimo, allora buon ascolto, ci rivediamo, ci risentiamo fra 3 minuti. Ciao. Concert de l'espace DI avec Emmanuel. Et Coco Royale. Samedi 18 avril à 21h45. Maison des cultures de Saint-Gilles. Entrée gratuite. Info www.radioalma.com. Bentornati. Ecco, il prossimo autore ospite qui da noi è Sebastiano, cioè qui da noi a distanza, al telefono in realtà, Sebastiano Adernò. da Noto, e che ci presenta, che ha partecipato a questa antologia del concorso Pubblica con noi 2008 della collana Storie e Versi a cura di Alessandro Ramberti. Collana che cui obiettivo è di raccogliere testi che in un modo o nell'altro mettono, tematizzano i rapporti interpersonali in questa società, nella società contemporanea. Benvenuto Sebastiano, ci sei? Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, sei con Giulietta Lachi che ha presentato il tuo libro, e con Gabriella Lattia. Con Gabriella Lattia ai microfoni e Paola Grauso in regia. Buonasera. Buonasera, ciao. Senti, cosa ci vuoi raccontare di questa antologia e soprattutto dei testi che poi leggerai dai Carmine Asincronici, che sono i testi delle tue poesie? Sì, innanzitutto vorrei spendere proprio due parole sull'iniziativa editoriale, visto che comunque mi sembra ottima, visto che permette di pubblicare poi, riuscendo ad arrivare fra i finalisti, una sillogia di poesie, anche data la situazione editoriale in Italia, cioè pubblicare a costo zero è quasi un'utopia è diventata. E quindi vorrei ringraziare il fare editore Alessandro perché porta avanti questo concorso Storie e Versi, Pubblica con noi. E lo ringraziamo anche noi di Radio Alm, perché tantissimi scrittori hanno partecipato alle nostre puntate. Sì, e io, la mia raccolta si chiama Carmine Asincronici, ho creato questo neologismo mettendo insieme una parola greca da Carmen, poesia, e sincronici per esprimere un po' la sincronia dello scrivere poesia, cioè per svelare un po' nel senso quell'aspetto della composizione in cui la sincronia fra le idee, i pensieri associativi ti permettono di riuscire a scrivere sulla carta e ad avere la sicurezza del tuo pensiero, di ciò che stai scrivendo, come se il meccanismo in quell'istante fra mente, pensiero ed emozione si compisse proprio e funzionasse. E quindi leggo qualcosa da questa raccolta. Sì, certo. Sì. Leggo la poesia con cui inizio, si intitola Consapevolezza. Fummo la morte e a seguire gli istanti prima del deciso di gettare la testa all'indietro a favore che la vita s'arrampicasse per le vene e l'alba ci scuotesse di un nuovo vagito, così che il sonno ci cascasse dagli occhi. Userei il tuo profilo per fendere la terra, perché sugli occhi c'è chi li sorveglia, smascherandosi dopo il sogno, abbozzando la capacità di sciogliere l'ordito di cui l'esistere ci ha intessuto. Grazie. Vuoi leggerne ancora qualcheduna? Sì, va bene. Magari... Allargo il palmo della mano. Allargo il palmo della mano, ora che il vento ci trattiene per i capelli, e per linfa e per cambio sbriciola i passati autunni, sciogliendoti senza guardare i nodi dietro la nuca, ora che al tatto la porosità delle tue sensazioni avviene dietro compenso per le labbra e basta soffiare su un'unghia per fare il solletico all'acqua che assieme agli occhi fa dei cerchi coi piacevoli pensieri. Senti Sebastiano, dicevamo prima che la poesia è quasi poesia d'underground. Sì. In Italia mi hai mandato un messaggio all'ultimo momento, vogliamo un attimo esplorare questa tua affermazione e anche dire magari ai nostri ascoltatori qua in Belgio, che sono magari un po' lontani dalla realtà italiana ma che comunque sono italiani o sanno parlare l'italiano, e quindi magari raccontare quali sono le difficoltà per un giovane che voglia scrivere poesia in Italia. Ma le difficoltà sono anche strutturali. Cioè, nel senso, forse oggi perché è Venerdì Santo, mi viene in mente questa immagine dei primi paleocristiani che per ritrovarsi e sfuggire ai pagani, i romani si infilavano nelle catacombe, nel senso, e questa è un po' l'impressione che mi dà quando ci sono i raduni di poesia, così radi, sporadici, poi anche la mia locazione geografica, io vivo a Noto, proprio la punta sud-orientale della Sicilia. Magari bellissima. Per una persona che vive a Milano, a Bologna, comunque nella parte più industrializzata del paese è più semplice, c'è più fermento culturale, ma proprio qui, cioè nella zona sud, è difficilissimo. E poi c'è non lo so, la poesia viene insegnata a scuola, ma sta diventando, cioè questa cosa sta avendo un po' il rovescio della medaglia, proprio perché sembra... Proprio perché è insegnata a scuola, sembra una cosa vecchia, sembra una cosa ormai, non lo so, anche il modo in cui viene i poeti antologizzati, si parla di poesia e si tira fuori Leopardi, non si tira mai fuori Montale, le persone hanno un'idea così, cioè, antiquata della poesia, come una forma d'arte del passato, quando invece comunque... ci sono molte persone che scrivono, ci sono case editrici, ci sono premi anche importanti, e quindi non lo so, c'è questa marginalità. E poi vabbè, dalla parte, secondo me, anche delle istituzioni, degli assessori, dei comuni, delle cose, c'è poca risposta. Bene. Ci si investe poco, ci si crede poco, okay. Sembra più un passatempo. Va bene, però senti, i cambiamenti avvengono dentro di noi prima che avvengano fuori, quindi ti sei proposto nel 2009, nel 2010 come cambiamento tuo? Perché io sono convinta che quando cambiamo noi dentro... Ma veramente, quando c'è una rivoluzione importante all'interno della nostra coscienza, della nostra anima, poi i risultati si vedono anche fuori, perché il mondo è un po' la rappresentazione dei nostri sogni, dei nostri pensieri. Quindi, certo. Ti sei fatto, proprio per non cadere in questo vittimismo, in questa, anche se vogliamo, negatività di dire sempre che in Italia tutto va male, che non c'è niente che funzioni. Qual è invece il tuo proposito e il tuo programma d'azione? Perché fai parte comunque di questo gruppo di scrittori con Fare Editore. Quindi ringraziamo Alessandro Ramberti, però Alessandro Ramberti, come c'è lui, ce ne sono tantissimi altri. Certo. Quindi qual è il tuo programma d'azione? Ma intanto, prima del programma, parto da un presupposto. C'è un libro di Rilke, Lettere a un giovane poeta. E Rilke a un certo punto al giovane poeta chiede: ma tu ti devi domandare, ma puoi fare a meno di scrivere? È questo che ti devi domandare. Io me lo sono posto, io non, almeno per il momento, non posso fare a meno di scrivere. Quindi, al di là di tutto, resisterà questa cosa della poesia, anche perché se sottraggo tempo lo sottraggo a me stesso. E poi, come ti dicevo, e come dicevi giustamente anche tu, ci sono degli esempi positivi. Ed è questi che bisogna supportare. Infatti. È un po' una specie di resistenza culturale, secondo me. Resistenza, ma anche, se vogliamo, diamogli valore, perché come dici, l'oceano è fatto di tante piccole goccioline, se tutte queste goccioline si mettono insieme, quindi portiamo positività, parliamo in modo positivo, raccontiamo la poesia ai nostri figli, visto che tu hai scritto una poesia, hai dedicato una poesia a tua figlia. Sì. Allora, una figlia che non ho, tra l'altro. È una figlia che non hai, però è la figlia comunque tua, perché non siamo, i figli non sono soltanto quelli nostri, delle nostre famiglie, i figli sono i figli di tutti, perché siamo tutti uniti. Quindi questo esercizio di pensiero positivo si deve allargare, si deve ampliare, e quindi i poeti che sono anche all'interno della tela sonora hanno poi comunque un'amplificazione del mondo, non sai mai come vada a finire. Quindi direi di essere positivo, sempre positivo. Noi qui da Bruxelles possiamo portare anche una testimonianza positiva, diciamo, perché viviamo ogni giorno in un ambiente dove ci sono poeti italiani come anche poeti francesi o francofoni o di altre origini che che si mescolano col mondo della musica, che si mescolano col mondo delle performance o anche slam, dello slam, che va verso il rap, già l'hip hop e altre culture. E quindi la poesia può restare qualcosa di molto contemporaneo e di molto attuale. Sì. Certo, il modo, forse in Italia, come dicevi tu, è uno dei pochi paesi dove la poesia viene davvero insegnata a scuola, però in modo, è forse anche proprio il modo in cui viene insegnata a scuola che la fa sembrare un'arte così lontana e antiquata, perché poche persone spiegano ai ragazzi, per esempio, che loro possono scrivere. Io ho avuto una grande maestra a scuola in Italia che a un certo punto ci ha detto, dopo che ogni sabato avevamo una poesia da imparare a memoria per il lunedì, una settimana ci ha detto di scriverne una noi. E è stato un piccolo esercizio, però alla fine era qualcosa di importante, perché potevamo fare anche il confronto fra noi e i poeti in qualche modo. Certo, perché la cultura non è una cosa che bisogna subire, ma una cosa che bisogna interiorizzare, fare propria. Per emanciparsi alla fine e superare i propri limiti nel pensiero, nella logica. Caro Sebastiano, ti chiamiamo fra 3 mesi e vediamo un po' che passi in avanti hai fatto. Va bene. Perché tra 3 mesi ti domandiamo il compitino, mentre a Giulietta che domandavano il compitino della poesia, ti chiederemo come sei riuscito, perché sicuramente ci riuscirai, a rivoluzionare a Noto la poesia e il fare poesia. Va bene. Ci rivediamo fra 3 mesi. Ok. Ti diamo grazie mille, un grande bacio. Ciao, auguri. Ciao, buonasera. Bene, cari amici, come vedete, io continuo insieme a Giulietta a proporre poesia, a dare la voce a questi poeti, a questi scrittori, perché come potete notare, come potete sentire, gli animi sono abbastanza abbacchiati, noi diciamo, un po' afflitti, un po' tristi. E forse noi da qua possiamo permetterci di infondere energia e riusciamo ad avere una visione più obiettiva, più oggettiva, ma io credo che veramente l'aria che si respiri non sia delle migliori. Però nonostante questo ci sono persone che riescono a fare dei lavori eccezionali, e infatti il prossimo nostro ospite, Stefano Massari, e direi è veramente in questo campo un eroe, perché voi non potete vederlo, ma la rivista Land, io ho qua il numero 2 del 2008, quindi è una rivista che mi è arrivata un po' di tempo fa, a parte il fatto che ha una copertina bellissima, molto moderna, molto stilizzata, molto semplice, ma i contenuti, quindi tutta la carrellata degli scrittori e poeti intervistati, sono, diciamo, è notevole, quindi uno migliore dell'altro. Allora, esistono questi eroi, esistono queste persone che riescono a vedere oltre, riescono a, se vogliamo, a fare pulizia interiore, a non focalizzarsi sulla negatività, ma ad andare avanti. Allora, vi concediamo ancora un po' di musica, Paola sceglierà un brano per voi e vado in regia a contattare Stefano, così poi lo intervistiamo. Giulietta, preparati. Preparatevi tutti. Preparatevi, ci sentiamo fra un po'. La coscienza, questo tempo che passa con pazienza, che allunga e stringe la distanza tra noi. Poi ci perderemo in un sorriso, ci troveremo stretti all'improvviso, una luce che si espande sul tuo viso, e noi, e noi, e noi. Un pensiero invisibile diventa tangibile come una foto che forma il tuo vestito. Mi piacerebbe averti e sfiorarti con un dito. Tra i suoni e le parole di un disco mai sentito per noi. Quando questo tempo avrà scandito con pazienza il ritmo che ci unisce e ci racchiude in una stanza, tra odori, sapori, accorceremo la distanza tra noi. come se avresti da uno specchio antico. Dell'anima che ha voce sti cose. Che mi pare addormuta, che mi pare incantata. L'aria, la tenda, è pallida come una perla. È così pallida che non si vede che colore sti cose. Tanno so scagnata, tanno so appannata, come se avessi da uno specchio antico. Sin da uno specchio antico. Buonasera cari amici, bentornati. Bentornati, non siamo riusciti a metterci in contatto con Stefano, quindi vi leggeremo alcuni brani che trovo molto belli e sceglieremo così noi i poeti che fanno parte di questa rivista. Allora, la rivista Land. La rivista Land, l'associazione Secolo Zero. E, mi ha attratto un'introduzione molto bella sul silenzio, quindi ve la leggerò. Il silenzio è l'approdo a cui tende la parola, ma non può essere il silenzio dell'inizio, deve essere il silenzio dell'arrivo. Nessun silenzio è innocente, come nessuna armonia è priva di colpe. Bisogna trovare con il proprio linguaggio il proprio silenzio. Adesso invece vi leggo una traduzione di Alberto Bertoni, Il crepuscolo del mattino, di Charles Baudelaire. La diana cantava nei cortili di caserma e sui lampioni soffiava il vento del mattino. Era l'ora in cui lo sciame dei sogni malfattori, gli scuri adolescenti, schiaccia sui cuscini, in cui come un occhio sanguinante che palpita e si muove, la lampada fa al giorno un graffio rosso, e in cui l'anima, sotto il peso ispido e grave del corpo, della lampada e del giorno imita lo scontro. Come un viso in lacrime asciugato dalla brezza, riempie l'aria un brivido di cose che svaniscono, e l'uomo è stanco di scrivere. E la donna di amare. Qua e là il fumo cominciava a sprigionarsi dalle case. A bocca aperta, sotto palpebre livide, le puttane dormivano di un sonno inconsapevole, e le povere, trascinando il gelo dei loro seni vizi, soffiavano sui tizi e si soffiavano le dita. Era l'ora in cui, tra freddo e penurie, le doglie delle gestanti diventano più acute. Come un singulto interrotto da sanguinosa schiuma, il canto lontano del gallo lacerava l'aria di bruma. Un mare di nebbia bagnava gli edifici, e negli angoli d'ospizio i moribondi, in singulti ineguali, esalavano gli ultimi respiri, e i debosciati tornavano a casa sfiancati di fatica. L'aurora tremolante, di rosa e di verde vestita, veniva avanti piano sulla Senna deserta, e la cupa Parigi, stropicciandosi gli occhi, imbracciava gli arnesi, vecchia laboriosa. Questa traduzione è di Alberto Bertone. Poi invece mi incuriosisce questo personaggio, Milo De Angelis, quindi vi leggerò innanzitutto una breve, cercherò di essere più possibile breve per poi poter leggere la poesia. Allora, qualche riga dell'intervista. Sì, infatti. Lucrezio è un poeta attraversato dalla contraddizione. Si predica seguace di Epicuro, ma si smentisce nella sostanza della sua lingua e della sua visione. Vorrebbe indicare la via della felicità, ma l'unica cosa che sa descrivere è un'angoscia incontenibile, ripresa al rallentatore in tutti i suoi dettagli. Afferma di volerci mostrare le brutture umane per farcele superare, ma in queste brutture affonda il suo verso con la naturalezza delirante di chi vede solo quella. E dunque ritorno alla domanda. La passione dell'insegnamento si dà insieme a quella dell'apprendere, dell'avere appreso e dell'essere riconoscenti. I maestri sono padri adottivi, ma anche padri adottati. Adottati per insegnarci a essere padri, per insegnarci a insegnare. Lo vediamo nel rapporto tra ogni poeta e i suoi maestri. Se sono veri maestri, nel rapporto tra Ungaretti e Apollinaire, tra Eliot e Pound, tra Fortini e Noventa. Noventa, diceva sempre Fortini, mi ha insegnato a cogliere in un poeta un talento e poi a spingerlo verso la sua vocazione, per quanto lontana dalla mia. Così si sceglie un padre che ha un nome e un cognome per diventare padri, non per prendere il suo nome o per imitare il suo stile, ma per entrare nella sua vocazione. Padre che mi chiama padre, ho scritto più volte, padre che mi consente di essere chiamato padre. Così un maestro non deve creare degli epigoni, ma al contrario deve aiutare un poeta, ossia qualcuno che ha già un destino, a scoprirlo e a dargli un nome. Bene, quindi direi è un'esortazione a chi ha voglia di scrivere, anche a essere saggio e vigilante, e cercare quindi quelle persone che lo possono aiutare a insegnargli, quindi a vedere più chiaro il proprio percorso. Abbiamo parlato quindi di paternità, oggi è una giornata particolare, Venerdì Santo, per coloro che credono nella resurrezione, nella morte, e in questo personaggio molto, molto discusso, ma anche molto, se vogliamo, molto bello, Gesù, un vero rivoluzionario, forse l'unico vero rivoluzionario della storia, che è stato in qualche modo poi copiato, rivisitato, riveduto, e chissà a noi effettivamente che cosa è giunto della vera storia di quest'uomo eccezionale. e che esortava quindi alla rivoluzione, alla rivoluzione interiore, alla pulizia, al cambiamento e quindi alla rinascita. E quindi, cari amici ascoltatori della Tela Sonora, che questa rivoluzione sia una rivoluzione per tutti, per Paola, per Giulietta, per me, per Gabriella, per Radio Alma, per voi soprattutto che ci ascoltate. Quindi un rinnovamento e un'esortazione a continuare il nostro cammino sempre più con entusiasmo e con gioia. Quindi vi lasciamo, non so se c'è tempo ancora per un brano, no, purtroppo no. Ringraziamo, ci sentiamo settimana prossima.